Kant e la religione cattolica e Kant. Siamo adesso dunque a un rapporto molto speciale, un tema che non si intende da sé e si annuncia abbastanza vasto dopo 200 anni di contatti possibili. Mi limiterò all'indicazione di un quadro storico e poi di alcuni punti importanti per la teologia cattolica. Spontaneamente si pensa oggi, quando si tematizza il rapporto a Kant, la cosiddetta teologia trascendentale del nostro secolo. Nomi come quelli di Karl Rahner, ma anche dei teologi francesi in seguito alla scuola di Joseph Maréchal, vengono in mente. Si sa che Kant fu protestante. Si sa anche che il suo cristianesimo è stato impregnato dall'illuminismo del suo tempo. Nella seconda metà del secolo suo, la situazione spirituale in Germania e in certe zone dell'Europa non sottolineava molto la differenza confessionale. Come filosofo, Kant ha avuto così un'influenza anche su pensatori cattolici. Si ricorda che la Chiesa cattolica, nel 1827, ha messo sull'indice dei libri proibiti la critica della ragion pura. Il momento pare significativo perché si riferisce al movimento del romanticismo e del restauro dopo le esperienze della rivoluzione francese e delle vicende di Napoleone. Chiude così un primo periodo di influenza di Kant sul pensiero cattolico, per così dire. Uno che ha tentato da parte cattolica di tener conto delle idee del filosofo di Königsberg riguardo alla religione fu il benedettino di Salisburgo Ulrich Peutinger, col suo Religion, Offenbarung und Kirche in der reinen Vernunft aufgesucht, pubblicato a Salisburgo 1795 già. Ma ci sono anche altri nomi che tentano il loro sforzo senza difficoltà. Sulla linea della condanna più tardi si incontra poi l'opera di Georg Hermes. Si conosce Georg Hermes come teologo di Münster e di Bonn, è stato condannato da Roma dopo la sua morte negli anni 30 del secolo scorso. Il suo cosiddetto semirazionalismo si riferiva a Kant. Ma in questo momento la campagna contro il razionalismo marca un cambiamento riguardo ai primi tentativi di una comunicazione tra filosofia kantiana e riflessione cattolica. Le ragioni principali ne furono piuttosto filosofiche, mi pare. Anche altrove si osserva una distanza da Kant in questo momento. Il nome di Kant non fu dimenticato, ma la sua presenza nel pensiero ha conosciuto una riduzione sensibile. Soltanto il neocantianismo della seconda metà del secolo scorso ha messo in avanti di nuovo la sua filosofia. E questo fenomeno ha una parallela interessante nel mondo cattolico, in quanto si sviluppava quasi allo stesso momento il ritorno a Tommaso d'Aquino col neotomismo. E dall'altra parte, nel campo protestante, si vede una influenza di Kant nella scuola di Albrecht Ritschl e i suoi allievi, con un'attenzione particolare sulla filosofia pratica ed etica, in modo di considerare Kant come praticamente il protagonista filosofico della teologia protestante. Tendenza contro cui Karl Barth ha formulato con altri la condanna di culturprotestantismus. Questi brevi ricordi ci offrono le ragioni di non voler presentare tutta la storia sinuosa del rapporto tra il cattolicesimo e Kant. Sarebbe per lunghi passaggi una storia del passato. non senza importanza certo, ma troppo onorosa in questa sede. Vorrei concentrarmi sull'influenza del pensiero di Kant nel rinnovo del pensiero cattolico negli anni venti del nostro secolo, cioè intorno al giubileo di 1924, 200 anni della nascita di Kant, perché in questo ambito temporale si hanno elaborato le opere di base per lo sviluppo di una teologia cattolica rinnovata. Visto il quadro dopo la Prima Guerra Mondiale, si può cominciare con August Denefe, Kant und die katholische Wahrheit, Freiburg 1922. Questo è un libro che manifesta ancora lo spirito antimodernistico dei secoli e dei decenni anteriori. Dunque è un libro di un chiaro antagonismo che ha marcato anche il secolo scorso per la più gran parte. Il pensiero kantiano è falso, quello cattolico, cioè tomista, è giusto. L'esempio illustra la situazione generale tra modernità e ciò che si credeva la filosofia perenne del cattolicesimo. In questo... Un altro nome, alla fine di questo decennio degli anni venti, si mostra con Erich Pschivara, Kant heute, pubblicato München-Berlin 1930. Questo libro lascia vedere il cambiamento realizzato fra tempo, benché Pschivara pare abbastanza prudente nelle sue affermazioni, ma vuole una comunicazione con Kant per corrispondere alla sfida della modernità. Fra Denefe e Pschivara c'è di fatto il già menzionato Joseph Maréchal, il noto pensatore belga, col suo quaderno 5 dell'opera Le Point de départ de la métaphysique, sotto il titolo Le tomisme devant la philosophie critique, punti di Bernard Jansen, storicista, e di Max Pribilla, moralista, sia già un panorama vasto per una considerazione profilata. Gli autori citati sono tutti gesuiti tedeschi, tranne Joseph Maréchal, forse un campo ristretto, ma promettente per il nostro problema. Primo punto, tematico, la sfida di una filosofia di religione. La possibilità di una filosofia di religione, compito relativamente recente, anche se non soltanto l'eredità del neocanzianismo, come si credeva per un certo tempo, e l'opinione del mio maestro Walter Brugger. Cos'è una filosofia di religione? Si sa che il termine copre un tentativo razionalista per sostituire la tradizionale teologia naturale. Il termine però è stato utilizzato da prima da Sigmund von Storchenau, dunque un contemporaneo di Kant, e indica una parte dell'apologetica cattolica. In seguito il concetto si congiunge grazie a Carl Leonhard Reinhold col dibattito intorno alla teologia etica di Kant. Una nuova fase della determinazione del luogo sistematico della filosofia di religione e del suo contenuto guarda il legame con la filosofia morale della religione di Kant, accettando impulsi romantici, ad esempio, del concetto del sentimento in Schleiermacher. Ma i cattolici non si trovano più in gran numero tra questi pensatori. Per capire ciò che stava accadendo negli anni venti, devono essere menzionate le sociologie di religione legate ai nomi di Max Weber, Georg Simmel e Emil Durkheim. Si domanda una interpretazione dei fondamenti della religione, ciò che implica un dovere di teoria della conoscenza religiosa. Non è necessario sviluppare di più queste posizioni perché si vede anche così che se non possono trovare grazia agli occhi di un magistero preoccupato del modernismo. Almeno pubblicamente tentativi cattolici in queste direzioni sono giudicati e condannati come espressioni del movimento modernista. Non di meno si sviluppano nel campo cattolico inizi di una filosofia di religione come considerazione filosofica del fenomeno religioso o con considerazione della storia delle religioni. Si vuole questa riflessione in chiara distanza dall'apologetica classica come metafisic critique. In questo senso, formula anche recentemente Bernhard Welte che la filosofia di religione avrebbe il dovere di riflettere in base alla libertà e all'autonomia del pensiero sulla cosa data della religione. A lui Stempf vede nell'elaborazione di un'immagine coerente dell'uomo e del mondo il compito dello sforzo nella lotta della teologia con la filosofia del tempo e con le scienze. Erich Pjuvara e Karl Rahner fanno della filosofia di religione e fanno della filosofia di religione lo strumento per fondare, in un certo senso, una teologia. Pjuvara oppone ai tre tipi di filosofia di religione, cioè quella dell'immanenza, quella della trascendenza e quella della trascendentalità, che fanno di Dio una funzione della coscienza, la fondazione generale della religione di tipo cattolico dell'analogia entis. Se questo corrisponde ancora a Kant, io non lo so. Karl Rahner, in contrasto a due tipi protestanti di filosofia di religione, concepisce questa filosofia come sapere che l'uomo può raggiungere circa la relazione giusta dell'uomo a Dio. Essa sarebbe, dal basso, l'unica fondazione possibile di una teologia come antropologia metafisica dell'uomo che ascolta nella sua storia una rivelazione possibile di Dio. Come ontologia della potentia obedientialis, della rivelazione, la filosofia di religione si mostra essenzialmente filosofia cristiana. Ma tutto questo era possibile dopo una certa fermatura della lotta cattolica circa la modernità, cioè dopo la fase dell'antimodernismo. Si sa che tutto il secolo scorso il cattolicesimo ha lottato contro la modernità sperimentata e vista in modi molto diversi, ma spesso come nemico spirituale. Soltanto negli anni venti il riconoscimento di valori da ambe le due parti ha permesso un tentativo di riconciliazione fruttuosa. Anche oggi questa posizione trova ancora malintesi e deformazioni, ma in fondo sembra che col Concilio Vaticano II questa lotta qualche volta tragica abbia trovato un esito chiaro. Quello ha cominciato di formarsi, dunque dopo la Prima Guerra Mondiale. I nomi menzionati si trovano come esempi noti della crescita spirituale di chi stiamo parlando. Il pensiero cattolico ha accettato il compito di una filosofia di religione, ciò che implica, senza che questo si lascia vedere subito, una risposta al problema non risolto allora del rapporto fra mentalità moderna e pensiero cattolico. Dapprima abbiamo la posizione ripetuta della contraddizione tra il pensiero kantiano e quello cattolico, cioè l'affermazione del contrasto non superabile che forza alla decisione secondo il modello del out-out. Tali voci però sono già meno forti di prima all'inizio degli anni venti. Si cercano vie per un riconoscimento. Questo sembra possibile. Si danno delle indicazioni. A Innsbruck il padre Innauen pubblica 1925 Kantische e scholastische Einschätzung der natürlichen Gotteserkenntnis. E a Monaco ed ugualmente a Roma si mette sul mercato allo stesso momento Der Kritizismus Kants di Bernhard Janssen, Manuel Bonn. Janssen non poteva decidersi chiaramente tra la posizione negativa e una positiva di fronte al pensiero religioso del filosofo di Königsberg. Non di meno, egli ha reso cosciente il problema per i suoi allievi. Si menziona inoltre Caspar Ninck col suo commentario su Kant's Kritik der reinen Vernunft, Francoforte 1930, Danke die Link zum ontologischen Gottesbeweis bei Kant in Philosophia per Ennis, Cura di, von Rintelen, Regensburg 1930. Lo stimolo più forte per lo sviluppo ulteriore è stato dato da Erich Pschivara, già menzionato, col suo libro Kant heute. Questa pubblicazione ha stabilito la possibilità di una ricerca non soltanto negativa e l'antagonismo fra filosofia oggettiva e quella soggettiva, come si diceva, era diventato sterile e si cominciava a vedere che in questa maniera nei dati reali non si lasciava rendere conto davvero. Non possiamo parlare qui di Joseph Marechal, abbastanza noto, e della sua importanza per il metodo positivo del lavoro col pensiero kantiano in prospettiva cattolica ed anzi tomista. Il contributo suo è conosciuto come la sua scuola. Il riferimento a Marechal si trova non soltanto in Germania, ma dappertutto in Europa, così ad esempio anche in Francia. Basta ricordare Henri de Lubac col suo libro sulle vie di Dio, dove si trova un excursus su Marechal. Per il mondo tedesco, ancora una volta, Bernard Jansen, Transzendentale Methode und Thomistische Erkenntnismetaphysik in Scholastik 3. Questo articolo ha avuto il suo influsso sulla recezione dell'impulso di Marechal nel senso della teoria della conoscenza, e questo ha determinato il modo di base del dialogo con la filosofia kantiana, benché non esclusivamente. Dunque, dopo la sfida della filosofia di religione e dopo la lotta circa la modernità, una terza dimensione per la teologia cattolica nel confronto col pensiero kantiano e la dimensione pratica ed etica. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che negli anni venti la discussione intorno alla filosofia kantiana ha conosciuto da parte cattolica senz'altro anche questo accento. L'esempio il più importante mi pare la discussione di Max Pribilla con August Messer, pubblicata sotto il titolo Katholisches und modernes Denken, ein Gedankenaustausch über Gottes Erkenntnis und Sittlichkeit, Stoccarda 1924, in cui si parla sulla libertà di pensiero, sull'autorità e sul rapporto tra etica e metafisica. È una discussione di un cattolico con un pensatore bene di carattere del neocanzianismo, ma abbastanza aperto verso il suo partner. Direttamente lo scambio non ha avuto molto successo, tranne quello della posizione molto chiara di Max Pribilla all'incontro del nazismo. Nella retrospettiva di oggi mi pare che ci sia già molto degli tentativi di una teologia politica, di un pensiero che tiene conto dell'ortoprassi e del problema della rilevanza vitale del pensiero. La morale non si esaurisce nella pura applicazione di principi chiari e fissi. Il dovere non è soltanto un'idea, ma un atteggiamento che concerne l'esistenza vitale e l'essere della persona umana. In quest'ambito si considera anche la difficoltà indicata coi termini di eteronomia e di autonomia, discussione che non pare terminata fino ad oggi. Kant, cominciando col male, ci dà l'indicazione che il punto di partenza per una concezione filosofica di religione può trovarsi sul livello pratico, appunto nell'esperienza della contraddizione vissuta, oppure dell'alterità a ciò che dovrebbe essere. Si vede subito che la religione si intende qui come quella cristiana in quanto ci offre una redenzione e tutto ciò che si comprende. Sotto il profilo della responsabilità personale, almeno, Kant ha offerto una sfida che contribuisce ad una formazione attiva di coscienza di fronte ai fenomeni fenomeni del male in base ad un giudizio concreto. In questo senso possiamo valutare la discussione circa la vita e la prassi come inizio della riflessione morale rinnovata ed anche come stimolo di un rinnovo del pensiero per rendere conto meglio delle realtà. La questione dell'eteronomia e dell'autonomia si pone nell'ambito di un quadro di responsabilità non astratta, ma concreta, che riguarda anzi il problema della conoscenza. Karl Rahner pare aver offerto anche qui un pensiero nuovo con la sua teologia della libertà negli anni dopo il Concilio Vaticano II. Vorrei terminare così questi brevi accenni offrendo soltanto indicazioni dei problemi aperti e ancora da elaborare. Non siamo, mi pare, in grado di dare delle risposte già, anche 200 anni dopo la pubblicazione della religione dei limiti della semplice ragione. Grazie tanto.